in primo piano. Bene, oggi in primo piano i medici rapiti in Darfur, la grande truffa di Madoff e l'epilogo di questa vicenda, i richiami del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi sulla crisi e anche questo curioso ritorno al passato, se vogliamo, come ci ricorda Filippo Ceccarelli su Repubblica, questo botta e risposta tra Berlusconi e Franceschini che rimanda un po' alle polemiche da anni 50 fra DC e PC. La battuta quotidiana di oggi è catto comunista. Il premier lo dice rivolto al leader del Partito Democratico. Clerico fascista è la risposta di Franceschini a Berlusconi. Ma entriamo direttamente subito nel dettaglio e andiamo su una vicenda che colpisce e inquieta, ed è una vicenda che scuote tutti, ma scuote soprattutto l'America. È il caso Madoff e i titoli sono espliciti su tutti i quotidiani. In cella a vita il re delle truffe, titola La Stampa. Il maxi truffatore di Wall Street, sono colpevole, è il titolo di Repubblica. La maxi truffa di Wall Street, Madoff confessa e va in carcere, è il titolo del Corriere della Sera. Leggiamo alcuni commenti perché oggi sono molto interessanti. È molto curioso, bello, vivace il commento di Vittorio Zucconi sulla Repubblica, con un titolo, anche questo, molto incisivo. Il Saddam della Borsa. Grazie Bernie, proclama con amaro sarcasmo il network televisivo più visto a Wall Street, la CNBC. Grazie per aver alzato la pietra che copriva i vermi, per avere mostrato l'imperatore nudo dei controlli di borsa, scrive Zucconi. Ma grazie soprattutto per essere finalmente il primo cattivo di questo film dell'orrore finanziario che fino a lui, al ladro dei 50 miliardi, non aveva una faccia, un nome, un mostro contro il quale coagulare la collera informe che dall'estate scorsa scuote un popolo di truffati. Il processo a Bernie Madoff, il benefattore delle buone cause caritatevoli, il protettore delle vedove e degli orfani, il mago dei profitti facili, è stato per un'America che ancora si domanda come il valore dei propri risparmi possa essersi, per i più fortunati, dimezzato in 6 mesi, le pensioni volatilizzate, le vecchiaie serene distrutte dopo decenni di pazienti accantonamenti, è stato ieri nel tribunale di Manhattan, divenuto una curva di ultra plaudenti, l'equivalente di quel giorno di aprile 2003, quando la statua di Saddam Hussein fu abbattuta a Baghdad. E sugli altri giornali, per esempio sulla Stampa, c'è un reportage interessante dentro l'esercito dei truffati che chiedono: ridateci i nostri soldi, in centinaia in fila per vedere in manette l'uomo che li ha rovinati. Il testo firmato Francesco Semprini da New York comincia così: giustizia è fatta, ma adesso vogliamo i nostri soldi indietro. È il commento a caldo dei truffati da Bernard Madoff, subito dopo la decisione del giudice Danny Chin di spedire in carcere l'autore della frode da 50 miliardi di dollari. L'annuncio liberatorio giunge dopo le 11, al termine di una mattina trascorsa tra marciapiedi e aule della corte distrettuale di Manhattan. L'esercito dei truffati si raduna molto presto davanti al 500 di Pearl Street. Quando scende dalla vettura, il finanziere con indosso il giubbetto antiproiettile sotto l'impermeabile nero viene accolto da una pioggia di flash accompagnata da fischi e grida di giustizia sia fatta. Per conquistare uno dei 100 posti nell'aula la fila è interminabile. Nessuno vuole perdersi le manette ai polsi del suo aguzzino. E Alessandra Farkas sul Corriere intervista Jay McInerney, lo scrittore che ha raccontato negli anni 80 gli eccessi degli yuppie. E lo scrittore dice alla corrispondente del Corriere della Sera: Madoff è un'icona, il simbolo di tutti i peccati commessi da Wall Street negli ultimi anni. L'America infierisce contro di lui come scorciatoia per punire tutti i finanzieri criminali che hanno ridotto il paese sul lastrico. E emerge, diciamo così, questo aspetto che lo scrittore puntualizza. Madoff appare come il ladro più disonesto e truffatore di tutti. Dall'altra parte, il suo cosiddetto schema Ponzi è facilissimo da capire. Altri criminali di Wall Street sono accusati di malefatte molto più complesse e nessuno ha capito. Ci ricorda Alessandra Farkas come siano riusciti a distruggere le banche rapinando gli investitori. La Stampa fa anche un approfondimento ed un commento su casa nostra, su quello che ci riguarda, sui fatti italiani, e parla proprio di casi italiani. Ricorda lo scandalo di Rete Mia, Intermercato e Giorgio Mendella, personaggio noto come il teleimbonitore dei primi anni 90, travolto poi da una serie di crack di società che erano legate a lui. E ci ricorda anche la vicenda Parmalat, i 14 miliardi di euro di buco, il più grande crack finanziario europeo, quasi 100.000 i risparmiatori truffati con i bond, uno scandalo planetario. Ricorda anche il caso Cirio, esploso in Italia nel novembre del 2002, un anno prima del caso Parmalat, e il gruppo alimentare guidato da Sergio Cragnotti finisce in bancarotta, schiacciato sotto il peso di oltre 1 miliardo di euro di debiti, la quasi totalità, 1.125 miliardi, fatto di obbligazioni collocate prevalentemente a piccoli risparmiatori e vendute come sicure. Manca anche l'altro scandalo, quello dei Tango Bond, ma di quello probabilmente ci sarà da parlare in altri momenti. E dopo Madoff, visto che abbiamo parlato di crisi e di economia, andiamo all'altro titolo importante sui giornali di oggi, ed è il richiamo del governatore della Banca d'Italia. Il Sole 24 Ore titola: Draghi, misure aggressive contro la crisi. Repubblica: Draghi, no ai prefetti in banca. Per uscire dalla crisi, secondo il governatore d'Italia, servono misure aggressive e coerenti, quindi bisogna insistere di più sul risanamento e bisogna puntare su misure coerenti. Ma Draghi ricorda anche che non è d'accordo all'idea dei prefetti in banca. La ricetta anticrisi non prevede questo tipo di controllo, secondo il governatore della Banca d'Italia. Sul Sole 24 Ore ci sono anche due spunti interessanti di scenario. Uno è un articolo firmato dall'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, e leggo soltanto il titolo: L'economia del futuro, al centro ci sarà l'industria, ci ricorda Romano Prodi. E di apertura un colonnino commentato da Gian Giacomo Nardozzi sul convegno che si sta svolgendo a Palermo. Il messaggio coraggioso delle piccole imprese. Scrive Nardozzi: sono passati quasi 3 anni da quando il direttore di questo giornale, Ferruccio De Bortoli, lanciò l'idea di un manifesto per le piccole imprese che ne valorizzasse il ruolo non solo economico ma anche sociale, ne accrescesse la considerazione nel discorso politico e nell'azione dei governi. Il tema allora sollevato è oggi di un'attualità ancor più viva. È infatti dal tessuto molecolare del nostro sistema produttivo che può venire un contributo fondamentale per affrontare al meglio la gravissima recessione in cui siamo precipitati, per uscirne con un'economia più dinamica e capace di prosperare. È ritenuto da molti che questa crisi globale si risolva proprio a livello locale, e questo spunto, questo messaggio rivolto alle piccole imprese è sicuramente interessante. Sempre in tema di economia c'è un altro aspetto da sottolineare, ed è quello di cui ci siamo occupati all'inizio della settimana, riguardava il piano casa. Casa ai disoccupati, ecco le misure. È il titolo del Messaggero. Oggi all'esame del governo il via libera ai fondi per l'edilizia e nuove regole per gli ammortizzatori. Ma in realtà la notizia è un'altra. Casa, scontro sulla sanatoria ambientale, titola Repubblica. Lega e AN frenano e il piano slitta. Berlusconi ammette: avrei voluto il decreto. In sostanza, il piano straordinario per l'edilizia non sarà oggi approvato dal Consiglio dei Ministri. Il governo continua a lavorare a questo provvedimento che serve, si è detto, per stimolare il settore, ma oggi diciamo che c'è un semplice esame preliminare, i tempi slittano, anche perché la rivoluzione voluta da Berlusconi come misura anticrisi viene frenata da molti dubbi. Paola Coppola su Repubblica ci ricorda che la Lega pone una questione. La questione è l'impatto della riforma sul territorio e il presidente del Carroccio, Cota, ha chiesto al governo attenzione per l'ambiente. Rappresenta un patrimonio della nostra gente e come tale va tutelato. Anche da AN arrivano freni e soprattutto sul timore di abusi nel settore dell'edilizia privata e i rischi di condoni mascherati. Di questo si discuterà ancora, ma c'è un altro aspetto che va che sempre si lega un po' su quelli che sono alcuni dissidi, alcuni dissensi sulle misure di cui si è parlato in questi giorni. E prendo un titolo da Repubblica: Fini, presidente della Camera, immorale la norma sui medici spia, ai clandestini pensi la polizia. E sui bimbi invisibili pronte correzioni al decreto legge. In sostanza, che cosa dice, che cosa ha detto il presidente della Camera? Il presidente della Camera sostiene che richiesta fatta ai medici di denunciare i pazienti extracomunitari che vanno al pronto soccorso sarebbe una legge immorale perché lede il diritto delle persone. Il principio basilare è un altro: il rispetto della persona viene sempre prima, perché uno prima è un uomo e poi un clandestino, soprattutto se ha bisogno di cure. E ci ricorda Liana Milella che la stretta legislativa su immigrazione e sicurezza approda alla Camera, ma le magagne del decreto legge si ingigantiscono, le associazioni di categoria, i medici protestano e Gianfranco Fini contesta, qualcuno dice parla come uno di sinistra. C'è un altro scandalo di cui si parla nelle cronache di oggi ed è uno scandalo a metà tra la cronaca giudiziaria e la cronaca, chiamiamo così, letteraria. Arrestato Giuliano Soria, finisce il premio Grinzane. Questo è il titolo della Stampa di Torino. L'accusa per Soria, ex patron del premio Grinzane, è di molestie sessuali. E è stato arrestato ieri a Torino proprio con questa pesante accusa, accusa di abusi sessuali, ma anche appropriazione indebita e malversazione. E prima dell'arresto si erano dimessi i vertici del premio, ci ricorda la Stampa. Ma prendiamo dal giornale La Cronaca di Luca Fazzo, che descrive un po' la fine di un'epoca. Il crollo di Giuliano Soria, scrive Fazzo, si compie in un pomeriggio di sole, quando della sua creatura gloriosa, il premio Grinzane Cavour, già non restano più che le macerie. Quando Soria entra negli uffici della Guardia di Finanza, tutto il board di saggi che anno per anno assegnava il premio si sta già squagliando come neve al sole. Prima di sera della giuria e probabilmente del premio stesso non resta più nulla, e prima di sera Soria è in una cella del carcere di Torino, dove le fiamme gialle lo portano in esecuzione dell'ordine di cattura spiccato nei suoi confronti dal giudice preliminare su richiesta della procura di Giancarlo Caselli. Nel capo d'accusa spicca l'articolo 316 bis, malversazione ai danni dello Stato. Le voci, le rivelazioni, i pettegolezzi che da settimane affollavano i giornali sull'allegra gestione del Grinzane si sono tradotte in fatti concreti, reati e prove. Dalla denuncia di un maggiordomo maltrattato e tampinato non è passato che un mese. Le accuse del domestico sono passate in fretta in secondo piano e poco contano, per quanto se ne sa, anche nello scattare delle manette, surclassate da quanto emergeva sulla mala gestione del Grinzane. Un altro titolo prendiamo dal Corriere della Sera, un fatto di cronaca, ma che comunque indica anche un'emergenza che riguarda i magistrati antimafia. Nessuno o quasi vuole andare a fare il pubblico ministero in Sicilia, ci ricorda Giuseppe Guastella, cronista del Corriere. Nella terra dove sono morti ammazzati dalla mafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, il concorso per coprire 55 posti di sostituto vacanti in 14 procure è stato un insuccesso totale. Si sono fatti avanti appena 4 magistrati, 3 per Palermo, 1 per Catania. Un disastro dalle tante e profonde ragioni, commenta Luca Palamara, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Questa è una notizia soltanto del Corriere della Sera. Altre notizie, proprio da primo piano sui quotidiani italiani, sono queste che troviamo sul Giornale. Basta segreti bancari, così finisce l'era dei paradisi fiscali. Che cosa succede? Succede questo. Succede che due staterelli europei, visibili soltanto al microscopio, scrive Guido Mattioni, Liechtenstein e Andorra, e che nella difesa del segreto bancario, così come nella muta complicità concessa ai capitali in errabonda fuga del fisco, avevano trovato l'unico plausibile motivo di notorietà, hanno annunciato che in questa materia la musica cambia anche da loro. Il Principato del Liechtenstein ha pubblicato ieri una dichiarazione di intenti in cui comunica di accettare gli standard di trasparenza e scambio di informazioni previsti dall'OCSE in materia fiscale, precisando che d'ora in avanti sosterrà i provvedimenti internazionali in caso di mancato rispetto delle regole. Una svolta nel segno della trasparenza? Staremo un po' a vedere. Un'altra notizia che troviamo sul Corriere della Sera è uno studio che riguarda la sanità, la buona sanità, ed è uno studio dell'Istituto Mario Negri e dell'Istituto Besta di Milano. Riguarda la malattia dell'Alzheimer. Trovato il gene che può fermare la malattia. La scoperta è stata fatta studiando un paziente di 39 anni. I risultati sono incoraggianti dai primi test e ora cominceranno le sperimentazioni. Su Repubblica una notizia che riguarda il mondo della scuola e parla del delicato tema delle supplenze. Ci sono i presidi in rivolta, scrive Salvo Intravaia. Lo Stato taglia i fondi e loro protestano. Sono impossibili le sostituzioni degli insegnanti a casa per malattia o per problemi vari. Saltano 500 milioni di finanziamenti previsti e a questo punto cominceranno anche le visite fiscali a carico degli istituti. Ultimo titolo, preti contro preti. Maxi lite in Vaticano è il titolo di Libero e riguarda, l'avevamo letto ieri, il duro richiamo del Papa ai vescovi cattolici, nella Chiesa ci si morde e ci si divora, che apre uno scontro. L'Osservatore Romano attacca la Curia Romana. Ma oggi è anche una giornata di settimanali e i settimanali in edicola sono L'Espresso e Panorama. La copertina dell'Espresso è dedicata alla famiglia Berlusconi. Il titolo infatti è Pier e Silvio Spot. Le reti Mediaset perdono ascolto ma fanno il pieno di pubblicità a scapito della Rai. Da quando Berlusconi è tornato al governo, i grandi inserzionisti hanno aumentato gli investimenti sulle TV del Cavaliere. E invece Panorama apre con un titolo: Forza Casa. Oltre 9 milioni di immobili potranno essere ampliati, in tutto 500 milioni di metri quadrati, impegnando 60 miliardi di euro. È il piano casa. Penso che siamo arrivati al momento dei saluti. Gian Giacomo Schiavi vi lascia e vi ringrazia per l'ascolto. L'appuntamento è per lunedì, sempre alle 7:30 con In Primo Piano.